GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Gonars, una commossa cerimonia di commemorazione delle vittime slovene e croate del campo di internamento fascista, un monumento realizzato nel 73 dall'allora Jugoslavia. È finito dinanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia il progetto della cooperativa sociale Aedis di aprire una casa per minori con problemi giudiziari a Pasean di Prato. Quasi una trentina anche oggi gli appuntamenti al Trieste Science Plus Fiction Festival. Nel giornale radio l'intervista a Gabriele Mainetti, il regista di Lo chiamavano Gigrobò e del recente La città proibita. A Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, musei civici aperti al pubblico, dove i visitatori sono passati dai 50.000 del 2023 ai 61.000 nel 2024 e crescono anche le presenze turistiche, quasi il 12% in più quest'anno. A Trieste questo pomeriggio 5 giovani leggeranno brani di Pasolini nell'anniversario del 50° dalla scomparsa del grande intellettuale. Accade alla libreria Feltrinelli. Il compositore e pianista di fama internazionale Giovanni Allevi parteciperà stasera all'anteprima nazionale del docufilm Allevi Back to Life a Trieste, al Cinema Nazionale. Sullo schermo le tappe fondamentali della sua carriera e la sua visione del mondo. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Morirono di freddo, malattie e stenti, quasi 500 internati nel campo di concentramento di Gonars, realizzato dal fascismo nel 1941. Stamattina con una cerimonia sono state commemorate 471 persone, sloveni e croati, che vi perirono fra il 1942 e il 1943. Il monumento fu costruito nel 1973 per iniziativa della Repubblica di Jugoslavia. In meno di due anni, tra 1942 e 43, il campo di concentramento di Gonars fu popolato da migliaia di uomini, donne, anziani e bambini deportati dalle zone occupate dalle forze armate dell'Italia fascista. Una parte proveniva dalla provincia annessa di Lubiana, un'altra dall'area del Gorski Kotar a nord-est di Fiume. Le difficili condizioni di prigionia comportarono la morte di circa 500 persone, ricordate anche quest'anno, proprio nel giorno in cui si commemorano i defunti. Tra coloro che non ce la fecero si contarono 70 bambini di meno di un anno. Uno di loro era il piccolo Alois Hudolin, nato a Gonars e morto qui dopo pochi mesi. Le sue spoglie sono conservate in una delle urne marchiate con la stella rossa della Jugoslavia, che volle un monumento nel cimitero di Gonars, costruito a 30 anni di distanza dai tragici fatti nel 1973. Si aggiunsero successivamente i monumenti delle neonate repubbliche di Slovenia e Croazia e dell'Italia. Il sogno del sindaco di Gonars Ivan Boemo è quello di unirli tutti con un'opera d'arte che rappresenti un ponte, al centro una bandiera bianca. Alla cerimonia organizzata dal comune di Gonars hanno preso parte le autorità civili e militari italiane e rappresentanti di Slovenia e Croazia. Per il governo di Lubiana ha parlato al microfono Vesna Humar, sottosegretaria del Ministero per gli Sloveni nel mondo. Sotto il gazebo predisposto per l'evento, discorsi del consigliere regionale Mauro Di Berte, della presidente dell'ANPI di Udine Antonella Lestani, oltre che del sindaco Boemo. Successivamente la deposizione di coroni di fiori al monumento ai caduti, che si trova al lato della strada regionale 252. Gonars, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Passons di Pasean di Prato, la cooperativa Aedis intende aprire una casa di accoglienza per minori con problemi giudiziari, giovani cioè a cui sono state inflitte misure alternative alla detenzione in carcere. Il progetto è finito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale perché il Comune non si sarebbe ancora pronunciato per consentire l'avvio dell'attività. Prende la via giudiziaria la disputa tra Comune di Pasean di Prato e cooperativa Aedis per l'insediamento nella frazione di Passons di una comunità socioeducativa per accogliere minori con problemi giudiziari per misure alternative alla detenzione. L'iter dura dall'aprile 2024. Gli avvocati della cooperativa hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di accertare la legittimità di quello che viene definito silenzio inadempimento del Comune, contestando richieste istruttorie definite illogiche e irrilevanti e sospensioni del procedimento configurate come strumentalmente dilatorie. Michele Lisco, presidente di Aedis. Dovrà stabilire se effettivamente da parte del Comune c'è stato un traccheggiamento, una dilazione di tempo che è andata oltre quello che dal punto di vista legale, dal punto di vista giuridico, è consentito. Nel frattempo, a febbraio, il Consiglio Comunale si pronuncia contro l'apertura e a giugno entra in vigore un emendamento del leghista Calligaris a una legge regionale che prevede una sospensione di 180 giorni dei procedimenti amministrativi per redigere un nuovo regolamento su questo tipo di strutture. Iuli Peressini, sindaco di Pasean di Prato. Come amministrazione abbiamo dato l'incarico a un avvocato per procedere con la costituzione in giudizio e tutelare gli interessi dell'amministrazione. Da parte della cittadinanza c'è interesse e stanno monitorando con attenzione gli sviluppi del procedimento. Nell'immobile affittato da un privato, Aedis ribadisce la disponibilità ad accogliere mamme in difficoltà con figli minori, come da una precedente richiesta. La Onlus gestisce un'altra comunità per ragazzi inviati dal Tribunale dei Minori in provincia di Pordenone. I ragazzi non hanno nulla, dico nulla, lo sottolineo mille volte, a che vedere con i minori stranieri non accompagnati, una categoria diversa, sottoposti ad una legge che non ha nulla a che vedere, c'è un controllo, come ho detto prima, ferreo da parte del Tribunale. Pasean di Prato, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diritto internazionale, complicità nel genocidio e inerzia delle istituzioni è il titolo dell'incontro organizzato dal Comitato di Trieste dell'Associazione Salam, Ragazzi dell'Ulivo, a cui interverrà Fausto Gianelli, del Comitato Esecutivo dell'Associazione Europea degli Avvocati per la Democrazia e i Diritti Umani. Il titolo del suo intervento è Le norme internazionali e gli obblighi delle istituzioni. Altro relatore, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, che interverrà da remoto per discutere di rispetto e attuazione delle norme istituzionali, doveri a cui sono tenuti anche gli enti locali, a Trieste al Teatro dei Fabbri alle 17. 12:37, passiamo al meteo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 17 gradi, Gorizia 16 gradi e mezzo, Udine 17 gradi e mezzo, Pordenone 18 gradi. In area montana Sappada 10, Piancavallo 12, Forni di Sopra 13 gradi e mezzo, Tarvisio 14 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 16 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 7, sul Monte Lussari 9 gradi, sulla costa Grado e Lignano 17 gradi. Le previsioni, cielo in prevalenza coperto con possibili piovigini o deboli piogge sparse fra la pianura e le prealpi. In quota sulla zona montana, specie orientale, soffierà vento moderato da sud-ovest. Su pianura e carso saranno possibili foschie, specialmente verso la sera. 10 proiezioni, 15 eventi fra dibattiti, incontri e presentazioni. Sarà una giornata molto ricca anche quella di oggi al Trieste Science Plus Fiction Festival. Fra le proiezioni odierne, Kombucha di Jake Myers al Miela e Orion di Jacob Over al Rossetti, entrambe alle 20. Ieri il regista Gabriele Mainetti, autore di Lo chiamavano Gigrobò, Freaks Out e del recente La città proibita, è stato il protagonista di un incontro sul suo rapporto con i videogiochi. Gabriele Mainetti, in veste di presidente di giuria del Trieste Science Plus Fiction Festival a Trieste. Qual è il rapporto che ha con la fantascienza un ragazzo cresciuto ai tempi in cui E.T. è esploso? Esatto, il primo film che ho visto al cinema era E.T., quindi è un rapporto intimo e ho capito sin da subito che la fantascienza, al di là dell'ipertecnologia e di quello che il futuro poteva in qualche modo riservarci, era anche tanto amore. Ed è quello che ho cercato nel cinema di fantascienza sempre. Lo definiscono un regista coraggioso, ha osato, ha avuto successo in filoni forse non così comuni nel nostro cinema italiano, mescolando fumetto, azione, anche kung fu nell'ultimo film. Perché questa scelta? E si riconosce in questo coraggio? Beh, è un cinema che fa parte del mio immaginario, ho sempre guardato, e noi non siamo soltanto il cinema italiano, noi siamo anche tanto altro. Prima, io sono del 76, si andava tanto in sala, e il cinema americano e il cinema asiatico per me è stato un passo immediato, perché guardavo l'animazione giapponese in televisione quando sono andato all'università, ma anche in quel periodo iniziavo a guardare, ma c'era pure Bruce Lee al tempo, io a 10 anni lo guardavo, quindi mi è sembrato naturale in qualche modo, così come quando ero piccolo mi riempivo comunque la testa di queste immagini, mi è sembrato naturale in qualche modo trovare l'armonia con il dramma popolare italiano e vedere che cosa succedeva. Qui a Trieste c'è un altro Gabriele che ha osato con la fantascienza, Gabriele Salvatores, con Il ragazzo invisibile, che vede Trieste un po' come città di ispirazione. Per lei Trieste le ispira? Beh, a Trieste la conosco perché mi ispira e mi porta fortuna, perché i miei primi cortometraggi sono venuti qui al Marimetraggio, quindi ci sono venuto volentieri, nel senso, quando mi hanno chiesto se volevo essere presidente del Trieste Science Plus Fiction Festival era un onore per me, poi sapere che era a Trieste era ancora meglio. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed ora andiamo nella capitale italiana della cultura 2027, cioè a Pordenone, dove in questo fine settimana i musei sono tutti aperti e dove già si nota un aumento delle presenze turistiche. Abbiamo approfittato per venire oggi a fare un giro, sperando che ci fosse meno gente e quindi di goderci di più la mostra. Musei civici di Pordenone aperti al pubblico anche nella festività di Ogni Santi e per tutto il mese di novembre, con un ricco programma di mostre e attività. A Palazzo Ricchieri incontriamo anche l'autore della sua personale, Dario Rosolen. Lei, pordenonese doc, si mette a disposizione anche dei suoi collezionisti, dei suoi visitatori? Certo, sì, sono venuti molti collezionisti anche da fuori Pordenone, da fuori regione, soprattutto anche dal Veneto, anche gente che non conoscevo più dopo 20-30 anni. Una signora è stata ieri, arrivata col treno qua, mi ha creato un'emozione anche a me. I dati premiano i musei cittadini tra gli asset di capitale della cultura. I visitatori sono passati da 50.000 del 2023 a oltre 60.000 nel 2024. Spero che cresca ulteriormente rispetto a tutta l'offerta che c'è adesso, che mi sembra abbastanza onorevole. Come la vede questa capitale della cultura? Siamo pronti e faremo bella figura. Crescono anche le presenze turistiche in città, più 11,7% quest'anno, secondo i dati di Promoturismo relativi al periodo gennaio-luglio, per una città che si prepara al 2027. Negli ultimi anni hanno fatto delle cose decisamente interessanti. Questa Pordenone sta cambiando un po', sta diventando anche un po' più turistica, che ne dici? Sì, assolutamente sì, si vedono anche gruppi in giro che vanno in visita con le guide, una novità. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In occasione del 50° anniversario dalla morte di Pierpaolo Pasolini, scomparso in circostanze ancora non chiarite il 2 novembre 1975, i giovani del Centro Universitario Teatrale Triestino, in collaborazione con Hangar Teatri, lo omaggeranno con la lettura espressiva di alcuni brani tratti dalle sue opere nell'ambito del progetto Dentro e Fuori le Parole. Appuntamento a Trieste, alla libreria Feltrinelli di via Mazzini, dalle 17 alla La direttrice della libreria, Samantha Romanesi, abbiamo chiesto come sia nata l'iniziativa. Feltrinelli ha voluto celebrare uno dei grandissimi scrittori del Novecento con alcuni eventi dedicati in realtà in varie città. Qui a Trieste abbiamo pensato a delle letture espressive. Come sono stati selezionati i brani che verranno letti? 5 ragazzi, di cui ho piacere anche di dire i nomi, sono Anna Paolitti, Paolo Baldassi, Elettra Gaia Mottola, Lorenzo Moretti, Maria Sofia Capoti. Nell'ambito del progetto Dentro e Fuori le Parole, che forma la lettura espressiva, bambini e ragazzi, diciamo, dalla scuola primaria fino all'università, sono loro che hanno scelto autonomamente i brani. Io so che loro hanno scelto 2 poesie, 2 saggi da scritti corsari e 2 brani da Petrolio, ma per sapere poi nello specifico di quali brani si tratta vi aspettiamo questo pomeriggio. C'era un messaggio in particolare che volevate trasmettere? Ci piaceva proprio l'idea di legare la storicità di un autore che ha dato voce poi al realismo e soprattutto di coinvolgere i giovani. Ecco, noi pensiamo che unire quella che è la tradizione a quella che è l'innovazione, quello che sono proprio i giovani, aprirsi ai giovani sia proprio aprirsi al futuro. E quindi da un lato ci vuole l'esperienza, dall'altro ci vogliono le idee nuove, ci vogliono le reinterpretazioni, ed è giusto che siano i ragazzi a reinterpretare nella loro attualità, ecco, nel loro vivere quotidiano, il mondo, accanto a chi insomma parte di quel percorso, di quel mondo l'ha poi costruito. E ci piaceva l'idea di far vivere concretamente le parole di un grande autore attraverso la voce dei giovani. Il compositore e pianista di fama internazionale Giovanni Allevi, di cui in sottofondo stiamo ascoltando il brano Back to Life, interverrà all'anteprima nazionale del docufilm Allevi Back to Life, al cui termine è previsto un incontro con l'artista. L'evento, in calendario a Trieste, al Cinema Nazionale alle 18.45, presenterà l'opera selezionata all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove è stata accolta con entusiasmo da critica e pubblico, che poi sarà distribuita nelle sale cinematografiche dal 17 novembre. Sullo schermo le tappe fondamentali della trentennale carriera artistica di Allevi e la sua visione del mondo, arricchita da una nuova sensibilità dovuta ai difficili momenti della malattia. Domani mattina, per i 60 anni della sua istituzione, l'orchestra Ferruccio Busoni si esibirà in Joie de Vivre, concerto in prima esecuzione assoluta per chitarra e orchestra di Allevi, al magazzino 26 in Portovecchio, domattina, domenica alle 11. Sarà accessibile fino al 23 novembre la mostra intitolata Ali per la libertà, il ruolo dell'aviazione alleata nella guerra di liberazione in Friuli, promossa dall'Associazione Partigiani Osoppo Friuli e allestita all'Istituto Tecnico Udinese Malignani, che possiede una sezione d'eccellenza dedicata all'aeronautica. In esposizione documenti multimediali e materiali storici per informare sul contributo dell'aviazione alleata alla liberazione della regione e dell'Italia. A Roberto Volpetti, presidente Associazione Partigiani Osoppo, abbiamo chiesto qual è la storia raccontata grazie a filmati e documenti conservati negli archivi inglesi e in quelli dell'associazione, raccolti in occasione della mostra. La storia è quella della guerra di liberazione, che vede tanti soggetti impegnati. Una parte importante fu costituita proprio da questa collaborazione che si instaurò fra alleati e partigiani. Questo ha trovato una sua importante espressione nella guerra aerea. Gli aerei erano tutti degli alleati, ma l'utilizzo che ne fu fatto fu determinante ai fini della guerra dei partigiani, cioè i lanci di agenti che collaboravano, i lanci di materiale di supporto, tute, ammunizionamenti, armi, fu determinante per poter condurre la resistenza da parte dei partigiani. Furono agenti, furono radiotelegrafisti, personaggi che poi rimasero in ombra, ma che ebbero un ruolo fondamentale e, come dire, abbiamo voluto in qualche modo impersonificare tutto questo grande numero di persone nella figura di Paola Deldin, che fu lanciata, infatti fu paracadutata, fu la prima donna paracadutista, come si definisce, perché fu lanciata da un aereo inglese che aveva proprio questo scopo, cioè collegare gli alleati con i partigiani. Furono creati due campi per consentire l'atterraggio e il decollo di piccoli aerei che avevano questo compito di tenere i collegamenti fra i partigiani e gli alleati. Due campi che erano a Meretto di Tomba, tra Meretto di Tomba e Coderno, e a Tramonti di Sotto, in provincia di Pordenone. Si intitola Nessi perplessi, la mostra itinerante dedicata a Giuseppe Paolo Cecere per i 70 anni dalla nascita, in cui sono raccolte una selezione di opere grafiche e pittoriche. Le tappe espositive, che si terranno a Gorizia, Gradisca, Cormons e Udine, toccheranno luoghi legati alla formazione e all'attività artistica di Cecere e includeranno musica, letture, riflessioni e ricordi. Primo appuntamento dunque a Gorizia, a Villa Tonello, dove è stata inaugurata stamattina. Un intervento musicale dell'ensemble Dramsam si terrà alle 18. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. In Serie A, nel pomeriggio allo Stadio Friuli si giocherà la partita Udinese-Atalanta con fischio d'inizio alle 15. L'Udinese, una rivale amatissima per l'Atalanta, che non perde da 15 gare contro i friulani, 9 vittorie e 6 pareggi, la striscia della Dea. Per cambiare la sua storia recente, la squadra di Rugnaic deve iniziare dai gol subiti, finora sono 15. Peggior difesa della Serie A insieme alla Fiorentina. 3 nella sconfitta con la Juventus e 2 nel successo di 7 giorni fa contro il Lecce. Insicurezza coincisa con l'alternanza in porta, Savo Koye, e soprattutto con l'infortunio di Christensen, che ancora non ci sarà. Assente anche Davis nell'Udinese. I muscoli di cristallo dell'attaccante inglese continuano ad essere la variabile negativa nell'affidabilità di Davis, già autore di 3 gol in questo campionato. In attacco il nome su una delle maglie dei titolari è però quello di Niccolò Zaniolo, che ritrova l'Atalanta con cui aveva giocato nella prima parte della stagione passata. Una sfida incrociata sulla tre quarti campo con l'altro ex, Lazar Samardžić, arrivato in Friuli nel 2021 prima del trasferimento a Bergamo nel 2024 per 20 milioni di euro. Atalanta a quota 13 in classifica, che reduce da 5 pareggi ma è l'unica imbattuta della Serie A. La squadra di Juric vuole uscire dalla terra di mezzo per ritrovare la gloria della classifica delle ultime stagioni che l'hanno trasformata da provinciale a grande. Quella denominazione incontrollata che manca ancora all'Udinese, oggi a 12 punti nonostante i 31 campionati di fila disputati in Serie A. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per il basket in A1, oggi APU Udine sarà impegnata sul parquet di Sassari, si comincia alle 18:15, la Pallacanestro Trieste invece gioca stasera alle 20:30 a Treviso. Pallanuoto nella quinta giornata del campionato di Serie A1 femminile, le Orchette Alabardate affronteranno in trasferta il Rapallo Pallanuoto, si giocherà nella piscina del Poggiolino alle 19. Ed ora spazio alle nostre rubriche, domani alle 11:05 su Rai 3 andrà in onda Est-Ovest, la rubrica della TGR che approfondisce le realtà dei paesi del centro ed est Europa. Di cosa si parlerà? In migliaia a vendere e comprare in una fiera di oggetti militari a Schempeter, a due passi dal confine di Gorizia. La regione autonoma della Gagauzia, abitata da turcomanni con passaporto moldavo, che parlano in russo. Irina Scerbakova, storica, dissidente e cofondatrice di Memorial, parla della politica repressiva di Putin. Sono centinaia di migliaia i bambini in Romania che crescono senza i genitori, che lavorano all'estero. Il progetto Aliena, scienziati croati e italiani monitorano le specie aliene di pesci e alghe in Adriatico. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E ancora domani, ma alla radio, dopo il giornale radio del mattino delle 8:30, tornerà Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai, domani fa il punto sulle semine autunnali. Cresce il frumento a scapito dell'orzo, si fanno strada le colture da biomassa. A seguire la ribolle e le castagne sulle tavole friulane delle famiglie riunite per ricordare i defunti. Le virtù del finocchio, coltivato in diverse varietà stagionali. Tra scienza, arte, tradizione e innovazione, le prime fasi del processo di produzione della birra. E ancora frutta secca, come evitare che irrancidisca e si conservi integra per gustarla durante le feste. Aromatica al freddo, consigli per riparare spezie e odori dalle insidie dell'inverno. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:52:30. Grazie a Mauro Cumin e a Eugenio Giuffrida per l'assistenza tecnica, a Samantha Gon per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 18:30, l'orario dei giorni festivi, sempre su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.